Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: il decreto liberalizzazioni. Mario Monti oggi ne ha parlato nel suo incontro con Angela Merkel a Berlino, e chiaramente anche l'incontro sarà oggetto di approfondimento in questo programma. Si delineano i vari settori coinvolti e torneremo sulla liberalizzazione, non per parlare oggi di notai. Ho ricevuto centinaia di mail e sms ieri di testimonianze di notai che fanno il nero. Io continuo a non crederci, diciamo così. Ma anche si delineano, dicevo, i settori: farmaci, farmacie, acqua, taxi, benzina, servizi pubblici, ferrovie, banche, ordini professionali, energia, poste, con diversi gradi però di incisività. E allora qui vi anticipo un tema che tratteremo nella seconda ora, e cioè se bisogna far soffrire le varie categorie, che soffrono tutti. E quindi ho trovato, e lo avremo nostro ospite nella seconda ora, particolarmente illuminante oggi l'analisi che fa Antonio Polito sul Corriere della Sera. Dice: attenzione, va bene fare le liberalizzazioni, ma non facciamo solo i giornalai, i tassisti, i farmacisti, i notai, andiamo anche sulle ferrovie dello Stato, sull'energia, sul gas, sulle municipalizzate, cioè là dove ci sono milioni e milioni di euro da poter risparmiare. Se no diventano le liberalizzazioni fatte con le categorie più deboli, cioè fare i forti con i deboli e i deboli con i forti non è mai bello. Allora, liberalizziamo tutto, quindi anche la rete gas, la concorrenza vera sulle ferrovie dello Stato, anche all'interno delle regioni, privatizziamo le municipalizzate che sono oggetto, anche e spesso di scambio di voti e di seggiole cadreghe per alcuni politici trombati a livello locale che hanno costi altissimi. Cioè andiamo a liberalizzare e mettere in concorrenza tutti i settori, solo così, a mio avviso, fai digerire anche ai farmacisti, agli avvocati e ai notai quello che dovranno pagare loro come, conseguenze delle liberalizzazioni. Se no, la sensazione che hanno è di essere colpiti solo loro. Questo è il tema che affronteremo nella seconda ora del programma, cioè si abbia il coraggio di andare a toccare anche quei luoghi in cui lo Stato, il governo è in conflitto di interessi, perché chiaramente, essendo azionista delle Poste, delle Ferrovie, dell'ENI, dell'Enel, è in conflitto di interessi nell'andare a toccare quei settori. E oppure può essere in conflitto di interessi la politica, andare a toccare appunto quelle che sono i posti comunali assegnati alle partecipate appunto dai comuni. Parleremo anche, come vi avevo annunciato ieri, del rapporto invece purtroppo su quella che è un'industria che non conosce crisi, e mi riferisco alla mafia, ma soprattutto al rischio che, se continua a esserci questo credit crunch, questa restrizione del credito nei confronti delle imprese oltre che dei privati, si spingeranno molte imprese verso lo strozzinaggio, o comunque verso canali alternativi e illegali, e quindi ancora più pericolosi, di finanziamento. Il tema del rapporto banche-imprese lo trattiamo domani. Ci sarà un incontro la settimana prossima, il 17, se non ricordo male, in cui la Banca d'Italia ha chiamato le banche italiane a rapporto, perché vuole capire come stanno utilizzando i soldi che Mario Draghi ha messo a disposizione a tutte le banche dell'area euro, i 400 e passa miliardi di euro, con interessi bassissimi all'1%, rimborso a 3 anni. Ecco, l'obiettivo era sì tranquillizzare le banche sul reperimento della liquidità, ma anche fare in modo che questi soldi venissero poi riversati in parte sul sistema, cioè tornando a finanziare chi se lo merita, chi ha il merito di credito e quant'altro. Se se le tengono le banche in cassa e magari li utilizzano per comprarsi debito a rendimenti più alti, cioè BOT o BTP, è chiaro che il meccanismo perde di efficacia. Lo faremo però domani. E ancora, chiaramente già lo anticipavo, il vertice in cui Mario Monti ha incontrato Angela Merkel. Devo dire che, da quello che abbiamo letto, c'è stato un Mario Monti molto, molto orgoglioso, che ha detto: l'Italia sta facendo i compiti, adesso tocca anche alla Germania e all'Europa mettere la sua parte, perché da questa crisi sugli spread, soprattutto si esce solo con l'iniziativa europea. Lo spread come va? Non va bene, questa non è la notizia, è ritornato a 520 punti, il rendimento del BTP a 10 anni è allo 7,04%. La Germania però oggi ha collocato Bund a 5 anni, cioè il nostro BTP a 5 anni, per 3 miliardi di euro ne ha collocati, un boom di richieste. Pensate che la domanda è stata 3 volte superiore all'offerta, pari a 9 miliardi, e il rendimento è sceso allo 0,9% contro l'1,11% dell'asta del 7 dicembre, ossia i rendimenti delle obbligazioni tedesche continuano a scendere ed è anche il motivo per cui lo spread, che è la differenza tra quei rendimenti e i nostri o del paese che si prende a riferimento, continua a essere alto. Cioè noi continuiamo a pagare il 7%, ma è la Germania che paga sempre di meno per trovare creditori per il suo debito. Male invece il dato tedesco sul PIL, a dimostrazione che siamo tutti sulla stessa barca. La Germania, visto che frenano i paesi intorno a lei, frena la Spagna, frena l'Italia, frena la Francia, nel quarto trimestre ha visto un PIL sostanzialmente in contrazione, un segno meno 0,25% rispetto ai 3 mesi precedenti. Comunque chiuderà l'anno con una crescita del 3%, ma era attesa una crescita ben più alta e soprattutto una crescita inferiore al 2010. Le altre notizie in breve. Allora, intanto le borse, fermo restando che 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, come sempre. Le borse, poco mossa a Milano, invariata, adesso negativa a Francoforte meno 0,40, Parigi meno 0,60, Londra meno 0,70, l'America meno 0,40. Perché Milano fa un po' meglio? Perché nonostante Pirelli perda il 4,60, Fiat il 3,20, Atlantia il 3,20, STMicroelectronics il 2,30, Campari il 2, Enel meno 1,80 come TOZ, Enel meno 1,50 come A2A, e infine anche Mediobanca perde l'1 come Eni. Vanno bene di nuovo le banche, di nuovo la Popolare di Milano, è arrivato il nuovo amministratore delegato, più 9,20% la Pop Milano, più 6,60% Unicredit a 2,58 euro, più 6,33% Monte dei Paschi, e più 4% il Banco Popolare, più 3,80 la Popolare Emilia Romagna. Bene anche Finmeccanica, più 5%, e Autogrill più 4,12%, Luxottica più 2,25%, Prismian, ossia l'ex Pirelli Cavi, più 2,15%, Mediolanum più 1,80%, Intesa San Paolo più 1,36%. Autogrill, ma anche Luxottica, vanno bene anche perché si sta indebolendo l'euro nei confronti del dollaro, e loro hanno parte, buona parte, nel caso di Autogrill è quasi 50%, se non ricordo male, del fatturato in dollari. Il dollaro si sta rafforzando, l'euro è sceso a 1,2674, insomma sempre un livello alto quello dell'euro a mio avviso, però sicuramente ben più basso rispetto a qualche settimana fa quando viaggiava a 1,35-1,37. Buoni conti pubblici italiani invece, e con questi conti pubblici, tra l'altro, che Mario Monti è arrivato oggi a Berlino nell'incontro più importante, queste sono due settimane importantissime, poi andrà a Londra da David Cameron, e poi la settimana prossima verranno Angela Merkel e Nicolas Sarkozy a Roma. Dicevo, miglioramento dei conti pubblici, il deficit, deficit si calcola sempre in rapporto al PIL italiano nei primi 9 mesi dell'anno è stato del 4,3%, ed è inferiore rispetto ai primi 9 mesi del 2010 quando era il 4,6%. Però soprattutto è il dato migliore dallo scoppio della crisi dal 2008. Ricordo che in Europa si chiede di stare sotto il 3% come regola, ma è sicuramente un dato in miglioramento, in progresso. Il deficit è, insomma, visto che ce lo chiedete, la differenza tra quanto entra e esce, la dico in maniera molto brutale, nelle casse dello Stato ogni anno, e si calcola in rapporto col PIL, per cui noi sappiamo che un punto di PIL sono circa 15-16 miliardi di euro, e allora dire che il nostro deficit è stato del 4% sul PIL vuol dire anche qui, sempre a spanne, dire che è stato di circa 46-48 miliardi di euro. La differenza tra entrate e uscite in rosso, chiaramente. Ancora, le manette agli evasori, lo dice la Corte dei Conti, sono rimaste per lo più inapplicate o hanno avuto risultati del tutto insoddisfacenti e talvolta anche controproducenti. E lo dice appunto la Corte dei Conti, che nel 2012 avvierà una specifica indagine per verificare la concreta applicazione e gli eventuali punti di debolezza della famosa legge manette agli evasori. Ancora, volete sapere cosa ha detto Mario Monti? Tra poco ce ne occuperemo. Comunque ha detto sostanzialmente che i tassi di interesse pagati in questo momento sul debito italiano non sono più giustificati visto lo sforzo dell'Italia, che anche gli stessi mercati apprezzano. L'Europa non deve più temere un'Italia fonte di infezione per la zona europea e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto: l'Italia ha fatto cose straordinarie. Ed è anche ribadito che la Germania a questo punto è pronta a versare più capitali, se lo fanno anche gli altri stati, versare più capitali nel fondo di salvataggio europeo, l'ISM. E poi Monti ha dato il suo appoggio alla Tobin Tax, quindi la tassa sulle transazioni finanziarie. È ancora in corso l'incontro tra la Presidente e la delegazione di Confindustria con il Ministro Elsa Fornero, che sta incontrando appunto le parti sociali, i sindacati in questi giorni. Oggi è la volta di Confindustria. Poco prima di entrare all'incontro, il Vicepresidente di Confindustria, Alberto Bombassei, ha detto che l'articolo 18 non è un tema, non lo porteremo al tavolo, è tutto il tema delle relazioni industriali ad essere al centro dell'incontro, ha continuato Bombassei, sentiremo cosa ci dicono. E il numero uno della CGIL, Susanna Camusso, oggi, parlando nel comitato direttivo della CGIL, ha detto: siamo seriamente interessati a provare a fare un accordo sindacale con il governo, ma come sempre sarà il merito a decidere, ma insomma siamo seriamente interessati a un accordo. A Genova si inasprisce la tensione nella vicenda Fincantieri, la città va verso lo sciopero generale, l'ha detto il sindaco di Genova Marta Vincenzi. E sciopero oltranza per gli operai di Sestri e Fiom, 8 ore di sciopero generale a gennaio per quello che riguarda chiaramente la vicenda Fincantieri. E adesso, prima di passare al primo tema d'apertura, quindi il rischio che la mafia, le mafie si avvantaggiano di questa crisi, e comunque un settore finanziario che non conosce crisi ed è la banca più liquida in Italia in questo momento, si chiama Mafia SPA, un paio di notizie che entrano di prepotenza nella nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, fuga dal Senato, ora che i prezzi, l'abbiamo raccontato due giorni fa, dal ristorante di Palazzo Madama sono quasi triplicati, si arriva a pagare 5 euro per un secondo, fino a 7 euro per un secondo, e allora è caccia al risparmio a tavola. Alcune settimane fa il senatore Valerio Carrara, eletto col PDL, ora nel gruppo di coesione nazionale, ha inviato una mail ai colleghi per proporre una convenzione in una delle trattorie del centro. Ha detto di aver chiesto ad alcuni ristoranti vicini al Senato delle convenzioni. Praticamente è riuscito a ottenere una convenzione che lui stesso ha definito molto interessante. Tre antipasti, non ve li posso leggere tutti, ma insomma, involtino di melanzana con gamberi, radicchio, bruschetta, seppie, sotte di cozze. Poi tre primi, cioè, tra quelli sotto elencati, si possono scegliere: risotto alla crema di scampi, orecchiette con ricciola, pachino, olive, basilico, paccheri allo scofano e quant'altro, infine vino, acqua, caffè, tutto a 20 euro. I soldi, dice il senatore Carrara, non li deve buttare via nessuno, qui a Roma abbiamo già certe spese e pagare 50 euro per pranzare al Senato fa un certo effetto. Ma Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. No, vuol dire, per carità, è giusto occuparsi anche di questo. Vorrei nel frattempo sapere che cos'altro ha fatto il senatore. Lo dico con massimo rispetto, senatore Carrara, perché se ha il tempo di andare in giro per i ristoranti attorno al Senato a cercare convenzioni, immagino che abbia avuto anche già il tempo di depositare numerosi progetti e disegni di legge. Lo dico con massimo rispetto perché non lo so. Invece fa suonare ogni giorno alle 5:30, quindi tra 8 minuti, le campane all'ora della chiusura delle borse, le campane della sua chiesa, per protestare contro lo strapotere della finanza internazionale. Don Giovanni Kirchner, parroco di Povegliano, piccolo centro delle porte di Treviso, vuole dar battaglia alla finanza internazionale a colpi di rintocchi per risvegliare le coscienze in questi tempi di crisi globale. In bocca al lupo anche a lui. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, nessuno ha mai detto che il, rispondo con i sms al 349-238-6666, che il PIL tedesco è un brutto dato. Abbiamo detto che l'ultimo trimestre dell'anno la Germania ha segnato un meno 0,25% rispetto al trimestre precedente, chiude con una crescita inferiore alle attese, ma capirai, il 3% noi non lo vediamo da 10 anni, anche da 15. Allora, ieri non ce l'abbiamo fatta perché ci sono numerosi temi. Mi sono presentato il rapporto Le mani della criminalità sulle imprese, rapporto di SOS Impresa, associazione aderente a Confesercenti. Obiettivamente c'è di che essere sconfortati. Praticamente il fatturato delle mafie si aggira intorno ai 140 miliardi di euro, l'utile superiore ai 100 miliardi, ed è la prima banca di questo paese, la mafia, perché disporrebbe, stando ai calcoli del rapporto, di circa 65 miliardi di liquidità. E a essere colpite non sono solo le grandi imprese, bar, ristoranti, negozi. Da lì arriva praticamente arrivano quasi 100 miliardi per le mafie, chiaramente pizze, ricatti, usure e quant'altro, pari al 7% del PIL nazionale. Vabbè, siccome il tema è di quelli pesanti, nel senso che seri e pesanti, intanto saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente nazionale dell'associazione antiracket e antiusura SOS Impresa, Lino Busà. Buonasera. Buonasera, buonasera. No, ci è venuto in mente di alleggerire l'inizio con una citazione che ogni tanto utilizziamo, su qual è appunto il problema di questo paese quando si parla di mafia. Il sole, il mare, i fichi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quello che voi chiamate piaghe, una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna, il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. Lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia, ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? E nella tezza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. Vabbè, mitico Johnny Stecchino, presidente Busà, la prendiamo così, perché adesso quello che sentiremo invece è veramente, veramente pesante. Però mi dico una cosa, voi avete calcolato che nel commercio a quanto ammontano i reati riconducibili alla criminalità organizzata? Guardi, noi abbiamo calcolato tutti i reati, sia della criminalità organizzata che della criminalità comune. Abbiamo detto 1300 reati sostanzialmente al giorno, chiaramente tra pizzo, usura, ma anche furti, taccheggi, rapine, che è un reato particolarmente in crescita nel nostro paese. Cioè, a sottolineare come oggi avere un negozio, una piccola attività economica sulle strade rappresenta paradossalmente un rischio. E quindi da lì la stima di quasi un reato al minuto per bar, ristoranti, negozi, alberghi, le imprese del mondo del commercio. Avete fatto anche il calcolo di quante imprese hanno chiuso in 3 anni, se non ricordo? Sì, abbiamo detto 190.000 sì, imprese. 190.000, che è una cifra sì, che fa impressione. Abbiamo, diciamo, calcolato che sostanzialmente per gravi situazioni di indebitamento collegate all'usura sono circa un terzo delle imprese che chiudono il nostro paese. C'è da aggiungere che di questo numero una piccola parte riapre ricambiando ragione sociale, ma molte volte, pur cambiando appunto ragione sociale, si porta appresso una situazione debitoria molto pesante e quindi non ce la fanno e sono comunque destinate al fallimento. Poi arriviamo adesso al come si lega questa crisi con il vantaggio che ne può trarre paradossalmente la mafia, le mafie e la criminalità in generale. Però ci sono anche dei calcoli che, voglio dire, le mafie e la criminalità sono sempre un danno in primo luogo sociale e anche economico. Ma c'è un calcolo che mi ha sorpreso: i mercati, le mani delle mafie sui mercati ortofrutticoli, purtroppo è un tema annoso. Quanto ci costano come prezzo finale? Perché poi non è solo il problema del racket, di quello che operi a chi lavora nel settore, ma è anche quello che viene a pagare, che pago io sostanzialmente per questa forma di racket. È chiaro che la mafia, nel momento in cui si penetra all'interno di un mercato, ha mente e prezzi più bassi rispetto al mercato corrente, per distruggere la concorrenza, per mettere in difficoltà le altre imprese. Nel momento in cui, raggiunge una condizione di monopolio in quel determinato settore, allora aumenta il prezzo fino al 30% in più. Noi citiamo il fatto lì di quel imprenditore agricolo mafioso che aveva una campagna di meloni, dice: qui i meloni sono tutti nostri e il prezzo lo facciamo noi. Ah beh, questa è proprio l'economia, quando sei in condizioni di monopolio. Quindi leghiamo anche il tema delle liberalizzazioni, si fa per dire, cioè le dice: prima distruggono il concorrente onesto facendo dumping, cioè offrendo prezzi sotto mercato, e poi una volta che ti hanno distrutto e hanno in mano il monopolio del settore dell'ortofrutta, si arriva a prezzi triplicati, più 200% in alcuni casi, dal campo alla tavola, anche per effetto delle infiltrazioni della malavita. Pensate che il volume delle agromafie, come si chiamano, cioè tutta l'attività della criminalità organizzata nel settore agroalimentare, ammonta a 12 miliardi e mezzo di euro, praticamente quasi un punto di PIL, una piccola manovra finanziaria. Due imprenditori raggiunti dalla nostra Alessandra Schepisi, chi lavora nell'edilizia, e Antonio Catrozza, battipaglia. Siccome la nostra azienda, diciamo, era abbastanza valida, 5-6 anni fa venimmo bussati dalla camorra di zona, che dovevamo fare un bagno alla camorrista, una casa al capo clan. Noi pensavamo di fare una cosa giusta, così stavamo tranquilli e incominciammo ad indebitarci. Poi stesso, diciamo, nel loro giro ci presentarono l'usuraio, poi più vari usurai sempre collegati a loro, che ci hanno portato alla rovina. L'anno scorso, quando poi sono arrivati alle minacce che mi volevano uccidere le mie figlie, mi sono presentato ai carabinieri, i quali, diciamo, ci hanno accolto come una grande famiglia. E se non era per, diciamo, il loro modo di fare, che ci hanno messo in condizione di psicologicamente di aprirci, perché sennò sarebbe finita diversamente, perché pensavo seriamente di togliermi la vita. Bisogna denunciare, perché è un vicolo chiuso e da un anno e mezzo mi è incominciata una nuova vita. Quindi lei adesso cosa fa? E lavoro presso un'azienda simile a quella dove lavoravo io, che era mia. Faccio il procacciatore di vendite, diciamo, per questa azienda. sopravvive la giornata, tutto qua. Quindi lei è qua anche a dare una testimonianza? Sono per convincere altre persone, perché parecchi hanno la vergogna di andare a denunciare, dice che sono sotto su, no? Bisogna aprirsi e andare dalle forze dell'ordine. Anche sì, la paura? La paura la fa la padrona, infatti la paura mi ha portato, quando hanno minacciato le mie figlie, di andare dai carabinieri. Poi i tempi della giustizia, ci sono ancora altre denunce fatte da un anno che non hanno avuto esito. Siamo in attesa che la magistratura poi faccia i suoi passi. Nel frattempo io, dopo un anno, mi ritrovo tutto a piede libero, che mi guardano storto in mezzo alla strada. Ho timore per la mia persona, per la mia famiglia. Però bisogna andare avanti e denunciare, perché sennò non se ne esce. Insomma, drammatico, perché poi questa è vita vissuta, purtroppo, il racconto di Antonio Catrozzo. Adesso ascoltiamo anche quello di un altro imprenditore, in questo caso del settore agricolo caseario, Roberto Battaglia. Oggi voglio essere elegante, non rispondo a chi scrive che palle i professionisti dell'antimafia, parliamo di borsa. Diciamo così, volessi essere cattivo le augurerei di aver perso in borsa, tanto la borsa la facciamo fra 10 minuti, ma ripeto, ci sono i computer, se vuole guardarsi i titoli dei computer vada sui computer. Noi parliamo di un'intera parte del paese, e anche nel nord non si scherza, strangolata dalle mafie, con costi e danni economici per questo paese, con anche costi e danni incredibilmente più alti per la vita di queste persone. Poi lei vada su internet e si guardi come ha fatto la borsa. Sentiamo Roberto Battaglia. Purtroppo la mia famiglia finisce nelle mani degli usurai. Questi stessi usurai chiamano prima la famiglia Zagaria, Pasquale Zagaria, che ho denunciato da poco. Chiamano a recuperare il credito che vantava un usuraio che aveva applicato tassi anche fino al 20%. Purtroppo una delle mie aziende però è fallita, perché le banche non ci hanno dato nessun tipo di supporto. Dopo che io finisco di pagare Pasquale Zagaria, c'era un altro usuraio che era stato già pagato, non contento, perché lui aveva trovato che la mia azienda agricola si stava risollevando, non contento, secondo lui doveva recuperare altri soldi, perché erano pochi quelli che io già gli avevo già pagato. E chiama Luigi Schiavone, il cugino di Cicciariello. Luigi Schiavone viene arrestato nella mia azienda in flagranza di reato il 17 luglio del 2008, insieme a due suoi complici. La cosa grave però è che poi si cade dalla padella nella brace, perché lo Stato non ti tutela. Io sono del parere che bisogna credere nello Stato e continuare a denunciare, nonostante oggi con il rapporto sulla criminalità si dimostra che le denunce ormai sono ai minimi. Ma a mio avviso, proprio perché l'imprenditore è sconfortato, c'è il rischio purtroppo di finire dalla padella nella brace. Adesso qual è la sua situazione? L'azienda ha chiuso? La mia situazione è un'azienda ha chiuso purtroppo, però io sono impegnato nella mia azienda principale, l'azienda agricola, con allevamento bufalino e caseificio annesso, e sto facendo l'impossibile per salvare questa azienda. Io do lavoro a quasi 30 persone, e quindi con grandissima difficoltà, perché poi le banche, quando tu denunci, diventi un soggetto a rischio, quindi non hai nessun tipo di credito, e questo è vergognoso, perché ci sono dei protocolli d'intesa firmati, ma quando si chiede di applicare questi protocolli, le banche puntualmente vengono meno. Vivo nella paura, sono convinto che lo Stato non mi può tutelare fino in fondo. Ma io non voglio andare via, voglio rimanere nella mia azienda, e quindi allo Stato tocca tutelarmi, anche perché quando Zagaria mi mandava sue persone, lo Stato non c'era, io ero solo. E quindi adesso chiedo allo Stato di essere presente. Beh, mi verrebbe da dire che se poi i 30 dipendenti e lo stesso Roberto Battaglia in questa vita di coraggio e di paura non dovessero farcela, possono sempre andare a dormire a casa del signore, dell'ascoltatore che ha scritto che palle quei professionisti dell'antimafia, ne parliamo di borsa. Tanto no, lei, visto che sono due palle, glieli mandiamo tutti a casa sua a dormire. Seriamente però, c'è un tema che toccava Presidente Busà, l'ultimo imprenditore, la distanza dello Stato. Questo purtroppo sappiamo che non è una novità, ma l'atteggiamento delle banche. Allora, ma è mai possibile che se uno denuncia il ricatto del racket, adesso lo riprendiamo, se uno denuncia il ricatto del racket, poi la banca lo considera un soggetto a rischio perché magari gli bruciano il cappellone? Questa è veramente la follia. Dopo il meteo, per favore. 17.41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Arriveremo anche alla borsa, non certo per quell'ascoltatore, ma per tutti gli altri ascoltatori. Però è presidente del SOS Impresa, Associazione Antiracket e Antiusura SOS Impresa, Lino Busà. La dichiarazione che ha fatto l'imprenditore dell'agricolo caseario Roberto Battaglia, che abbiamo appena sentito, è drammatica. Cioè, dice, quando tu denunci l'usura, il racket, il ricatto mafioso, la banca ti abbassa il merito di credito, diventi un soggetto a rischio. Ma vi risulta veramente? No, è così. Invece di premiare il coraggio delle persone che denunciano, paradossalmente il coraggio civile si trasforma in uno svantaggio. Io credo che se non facciamo in modo che la denuncia diventi effettivamente conveniente, grandi passi avanti, perché altri imprenditori denuncia non se ne faranno. E allora a Mario Monti facesse, visto che c'è il pacchetto di legge sulle liberalizzazioni, le banche mi sembra che siano poco colpite, una robettina sui mutui e l'assicurazione da fare. Allora, una bella legge, per cui se tu denunci l'usura e il racket viene dimostrata, hai in automatico un miglioramento del tuo merito di credito, no? Come se tu avessi una casa in più o un capannone in più, così vediamo. No, perché non è possibile, uno denuncia e gli si abbassa il merito di credito perché la banca ha paura che poi gli venga bruciato il capannone o il macchinario, allora è spingere le persone direttamente nell'usura. Abbia pazienza, prego. No, dicevo, noi pensiamo che sarebbe importante anche una corsia preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti e delle forniture pubbliche, perché è paradossale che chi denuncia poi deve emigrare e non può lavorare sul territorio, e mentre pensiamo alla Salerno-Reggio Calabria, le aziende dell'Andrangheta in quel territorio costruiscono loro. Sì, appunto, bella anche questa, ha ragione. Quindi merito di credito che migliora se denunci, cioè tu hai denunciato il racket e io come banca ti applico un credito migliore rispetto ad altri, e corsia preferenziale negli appalti proprio perché sei stato un cittadino onesto e hai denunciato e rischi la vita oltre che il danno economico, hai una corsia preferenziale negli appalti. C'è chi scrive le banche private tagliano i finanziamenti a chi denuncia i mafiosi perché costoro danneggiano gli affari dei mafiosi, i quali a loro volta sono correntisti delle banche. Ma no, adesso dai, per carità, non ci voglio credere che i mafiosi mettono i soldi nelle banche, sarebbe inaccettabile. È un po' come i notai che fanno il nero. Senta, mi dico, è di nuovo caduto la linea, io volevo semplicemente ringraziare, lo ringrazieremo poi privatamente, grazie, in bocca al lupo, non solo al Presidente Nazionale dell'Associazione Antiracket e Antiusura SS Impresa, Lino Busà, ma a tutti i commercianti, gli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare l'usura e il racket e che ne stanno purtroppo pagando le conseguenze. Adesso, nonostante la richiesta di quell'ascoltatore, la borsa. Più 0,25% Milano, Francoforte meno 0,17%, Parigi meno 0,20%, Londra meno 0,66%, euro a quota 1,26,80. Molto bene le banche oggi in Italia. La Popolare di Milano più 9,37, ma anche il Monte dei Paschi è oggi in netto recupero più 8%, Unicredito più 5,5, Banco Popolare più 4,5, Popolare Emilia Romagna più 4, e poi Intesa San Paolo un po' più bassa più 1,5%. Come sempre il collegamento con Radio Corriere Sole 24 ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. La Pop Milano festeggia l'arrivo del nuovo consigliere delegato, di Piero Montani, mi sembra. Sì, esattamente, la Popolare di Milano è stata la migliore sul listino principale. Ieri in tarda serata è arrivato il via libera del consiglio di sorveglianza, di fatto la nomina di Piero Montani, ex amministratore delegato di Anton Veneta e attualmente alla Banca del Mezzogiorno, come consigliere delegato, quindi come futuro capo azienda della banca. Il mercato sembra apprezzare, anzi ha decisamente apprezzato questa nomina, e quindi l'arrivo di Montani, che di fatto segna una discontinuità rispetto al passato e l'avvio di una nuova gestione, l'avvio concreto di una nuova gestione dopo l'ingresso del fondo Investindustrial di Andrea Bonomi nel capitale della banca, e il titolo quindi ha guadagnato il 9,37%. Ancora questo per la BPM, BPE molto bene anche l'Emilia Romagna. Monte dei Paschi c'è qualche motivo, perché era tre giorni che veniva bastonato in borsa, ma oggi per fortuna recupera. Sì, esatto, è stata bastonata per tre giorni sui timori che dovesse lanciare un nuovo aumento di capitale per soddisfare le richieste dell'autorità bancaria europea, e anche il Monte dei Paschi è vicino a un cambio manageriale. Domani dovrebbe essere designato un nuovo direttore generale, Fabrizio Viola, allo studio proprio come cercare di non chiedere chiedere nuovi soldi ai soci. Insomma, diciamo che in questa fase è un rimbalzo tecnico dopo i ribassi drastici degli ultimi giorni, in attesa di capire quale sarà la strategia della banca sul fronte del capitale. Ancora altri titoli oltre Monte dei Paschi abbiamo visto in recupero: Unicredit più 5,50%, Finmeccanica più 5,88%, e poi parliamo anche di Autogrill e di Luxottica e del rapporto euro-dollaro. Finmeccanica. Meccanica è stato il migliore del settore industriale, il titolo rimane sotto i riflettori sulle prospettive di un risanamento dell'Ansaldo Breda. In passato, nelle ultime settimane, si era parlato anche di una possibile vendita della controllata, è uno dei dossier che rimangono caldi e che mettono spesso il titolo sotto i riflettori, perché naturalmente sarebbe la soluzione di un nodo e la possibilità della società di incassare e di monetizzare questo asset. Oggi quindi il mercato ci crede e il titolo ha guadagnato il 5,9%. Per quanto riguarda Autogrill e Luxottica ci sono anche notizie specifiche sulle due società. Per quanto riguarda Autogrill, il mercato in particolare festeggia l'ampliamento della partnership internazionale con Starbucks, che è stata avviata negli Stati Uniti nel 91 e adesso prevede lo sbarco anche in Europa, proprio nei punti vendita gestiti da Autogrill. Per quanto riguarda invece Luxottica, il mercato apprezza le novità arrivate alla fine dell'anno scorso per la società, in particolare l'acquisizione della licenza Armani e l'espansione nel Sud America. Notizie certo. Che rendono più difensivo il profilo di Luxottica, che ne ampliano le dimensioni, che ormai è quasi triplo rispetto al più vicino concorrente, quindi la società è ben posizionata per a partire in questo 2012. Dopo il traffico, gli altri titoli, è una risposta che devo dare agli ascoltatori. Non voglio credere, vediamo di capirci, non ci credo che i notai fanno il nero, non ci credo che la mafia investa nelle banche. Non ci capiamo? Quando dico non ci credo, perché siccome mi scrivete dove vivi, nella casa di Marzapane, sulla nuvola, ecco, diciamo che vivo sulla nuvola, chi vuol capire capisce, il traffico. Io continuo a non credere a queste cose, ma ci sono centinaia di ascoltatori che ci scrivono che è proprio così, insomma, anche sui notai, ma io non so, ma io spero che siano una minoranza, perché qua sembra che tutti quelli che vanno dal notaio pagano una parte in nero. Non ci voglio credere. Sembra che molti imprenditori, quando vanno in banca dopo aver denunciato usura e racket, stanno scrivendo la banca gli peggiora il merito di credito. Non ci voglio credere. Mettiamola così. Allora andiamo avanti. Luxottica, l'hai detta, Pirelli, che succede? È il peggior titolo oggi, meno 4,47%. Paolo. Esattamente, qui pesano notizie provenienti dagli Stati Uniti, in particolare l'annuncio della concorrente Goodyear, che ha dato indicazioni sull'andamento del mercato degli pneumatici nei prossimi mesi inferiori al previsto e soprattutto inferiori alle stime precedenti, quindi ne ha risentito tutto il comparto. Goodyear negli Stati Uniti sta perdendo circa il 3,5%, mentre appunto Pirelli ha fatto segnare la peggiore prestazione sul FTSE MIB, lasciando sul terreno il 4,47%. Anche altri titoli in Europa del comparto hanno chiuso in rosso in seguito a questo annuncio. Michelin, ad esempio, a Parigi ha perso lo 0,86%. E questo per quello che riguarda appunto Pirelli sull'effetto Goodyear. Tra l'altro, su questo c'è anche Fiat, oggi ha perso il 2,60%. Sì, esattamente, di fatto i mercati sono naturalmente gli stessi, molto collegati, quindi sì. Anche il settore auto ha risentito proprio di queste indicazioni. Fiat ha perso il 2,59%. Vorrei chiudere su Autogrill, abbiamo detto l'euro comunque vantaggia. Autogrill ha fatto anche una partnership internazionale con Starbucks, la catena dei caffè americani, ma c'è anche un euro in indebolimento sul dollaro. Chi ci chiede dello spread, non è vero che non ne parliamo più, l'ho detto in apertura, purtroppo è tornato a 520 punti. A chi mi chiede invece, ma insomma, avete fatto dimettere Berlusconi per colpa dello spread e adesso lo spread è rimasto fermo, io dico che lo spread era sicuramente alto anche quando si è dimesso Berlusconi. A me sembrava che il governo fosse arrivato con una scarsissima maggioranza di appena 8 parlamentari e per rotto la cuffia in Parlamento, ma mi ricordo male. Grazie Paolo Paronetto, e adesso parliamo invece proprio di governo. Mario Monti che incontra Angela Merkel a Berlino. 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi non ci capiamo. Ci capiamo quando dico non ci voglio credere? Ma secondo me non ci capiamo. Mario Monti è andato a Berlino, dove non c'è un giudice, ma c'è Angela Merkel, che oddio, è anche stato un giudice pesante sull'Italia. Buono l'incontro, nessuna lite, ha detto Angela Merkel, tante cose di cui parlare, siamo pronti a mettere più capitale nel fondo europeo di salvataggio. L'Italia, ha detto la Merkel a Monti, ha fatto cose straordinarie. E poi grande rispetto per le riforme fatte dall'Italia. Le misure del governo rafforzeranno il vostro paese, ha continuato Angela Merkel. Da Roma grande passo, ma non è l'ultima riforma. E poi però la Merkel ha fatto un passo avanti importante, perché è tornata ad avere un afflato, diciamo così, più europeista. Ognuno deve fare la sua parte, siamo un'unica entità, se l'hai ricordata anche lei, l'Europa, e nel mercato internazionale. L'Italia ha fatto un passo molto importante. Quando si chiede è l'ultima riforma, allora bisogna dire nella politica non c'è mai l'ultima riforma, il mondo cambia velocemente e quindi dobbiamo adeguarci a questi cambiamenti. Questo succede alla Germania, all'Italia, ad ogni paese, questo succede anche negli altri paesi dell'Unione Europea. Il secondo punto che fa sorgere i dubbi sui mercati, gli Stati membri dell'Unione Europea sono veramente compatti, si sentono questo impegno congiunto rispetto all'euro. Noi possiamo rispondere solo congiuntamente, non lo può fare un paese da solo, tutti i paesi lo devono fare congiuntamente. La Germania dà un contributo in questo senso, l'Italia dà un contributo in questo senso, e ognuno dà il proprio contributo. Questo ha a che fare con la velocità delle decisioni, ha a che fare con la disponibilità a dire sì, in futuro avremo bisogno di più Europa e non meno Europa, ha a che fare effettivamente con l'apertura rispetto al mercato interno e a capire che in molte questioni siamo un'entità unica sui mercati internazionali, non 17 o 27 diversi paesi. E poi sulla Tobin Tax, ossia la tassazione che l'Europa vuole imporre sulle transazioni finanziarie, quella che ha creato la rottura con la Gran Bretagna di David Cameron, noi andiamo avanti, ha detto la Merkel, ma non ho l'ok del mio governo, è immaginabile a livello solo chiaramente di area euro. E Mario Monti, per quello che riguarda l'Italia, ha detto che il nostro paese è a questo punto più disponibile in un quadro europeo ad approvare una tassazione sulle transazioni finanziarie. La parte più grossa però, come anticipavo, riguarda anche quello che Mario Monti ha detto alla Merkel, perché non le ha solo mostrato i risultati, le ha anche chiesto un maggiore impegno, ha detto che l'Italia non è più possibile, l'Italia non è più ormai un possibile elemento di infezione a livello europeo. Ne parliamo dopo il GR, così come parleremo anche delle liberalizzazioni da fare su tutti i campi, anche quelle dei grandi soggetti e potenti soggetti. Sui notai, siccome da ieri che andiamo avanti, allora facciamo così, siccome io non ci credo che si paghi in nero dai notai, che sono pubblici ufficiali e lo rivendicano con forza, qualcuno mi scrivesse che non l'ha fatto, perché qua stanno scrivendo solo ascoltatori che hanno pagato una parte del lato notarile in nero. Ci risentiamo dopo il GR. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, dicevamo di come Mario Monti oggi si è presentato a Berlino. Ricordavo in apertura che oggi l'Istat ha pubblicato l'andamento del deficit nei primi 9 mesi dell'anno ed è il miglior dato dal 2008. Ovviamente questo è un merito, non c'è nessun problema a dirlo, del precedente governo Berlusconi, e chi ascolta questo programma sa che abbiamo sempre dato merito all'allora ministro Tremonti di aver tenuto botta nel 2008, 2009, 2010 sul fronte del deficit. Poi uno può muovere altre critiche a Tremonti, ma sul fronte dei conti pubblici sono tranquillissimo nel dire che Tremonti è stato nella linea, nella scia dei migliori ministri di questo paese. Sul fronte dei conti pubblici, non voglio adesso ricevere centinaia di messaggi di polemica su questo, il deficit italiano, andate a vedervelo, nel 2009 e anche nel 2010 non era fuori controllo, sicuramente era meglio anche quello di altri paesi a noi vicini, penso alla Francia. Ma dicevo, Mario Monti a Berlino, dove non c'è un giudice, o meglio c'è un giudice, si chiama Angela Merkel. Sentiamo il giudizio di Mario Monti, che ha detto, insomma, adesso però i mercati capiscano che i tassi che stiamo pagando sul debito, leggi i rendimenti del BTP al 7% anche oggi e spread a 520 punti, non sono più giustificati. L'Italia non si aspetta nessun riconoscimento e, ripeto, gli italiani hanno capito molto più del previsto, e io sono di questo molto grato ai cittadini italiani e al Parlamento italiano, che ha con una maggioranza senza precedenti approvato le nostre misure. Quindi l'Italia ha capito la necessità della disciplina, di meccanismi di mercato che funzionino, e questo ovviamente richiederà qualche tempo per trasformarsi in una crescita maggiore e in una occupazione maggiore. Gli italiani sperano anche, e io con loro, che prima di così, prima dei molti trimestri che occorrono perché buone politiche economiche si trasformino in maggiore crescita economica, nei mercati finanziari ci possa essere una riduzione dei tassi di interesse, che potevano essere giustificati quando i mercati avevano una diffidenza, a ragione o a torto, verso la politica economica italiana, ma non più in un momento in cui i mercati stessi, con molte dichiarazioni, hanno detto di apprezzare lo sforzo che l'Italia sta facendo. Allora, Gerardo Pelosi, inviato a Berlino appunto per il vertice italo-tedesco. Monti ha anche detto, adesso a questo punto chiediamo all'Unione Europea di fare la sua parte e di adottare misure che facilitino tassi più bassi. Ma la domanda che ho per te è se hai notato anche un ammorbidimento delle posizioni della Merkel, cioè un maggior senso europeista, una maggior disponibilità a questo punto, se l'Italia fa i compiti, a garantire, diciamo, la tenuta dell'intero sistema euro. Gerardo. Io direi questo: è difficile sempre leggere gli avvenimenti nel momento in cui si verificano con la chiave così della storia, però siamo vicini a un appuntamento, che è quello del 20 gennaio, sì, quando si troveranno a Roma Merkel, Sarkozy e Monti, che potrebbe, io dico potrebbe, ma forse ci sono elementi anche concreti per dire, potrebbe essere paragonato a quel momento magico dell'89 in cui, davanti a un caminetto, un Kohl quasi piangente chiese a Mitterrand di dare la riunificazione tedesca in cambio dell'euro. Quindi siamo di fronte a questa, diciamo, questo scontro anche, che però è anche il momento delle responsabilità. E la Germania ha capito finalmente che è giunto il momento della responsabilità, che significa solidarietà, che significa anche rendere il ESM, l'European Stability Mechanism, che deve nascere e che dovrà essere messo in condizioni con i cosiddetti firewalls, cioè questo muro di fuoco per contrastare la speculazione internazionale, di agire effettivamente come una banca, non con ovviamente le tecnicalità della BCE, ma con una dotazione congrua, e non certo i 500 miliardi che non sono considerati congrui dal mercati, come si è visto finora. Beh, Gerardo, mi piace, perché pur con tutta la prudenza e la cautela del caso, è netto il tuo giudizio, cioè potremmo essere vicini a un momento di svolta. Vicino a un momento di svolta, né in quello soprattutto che è l'atteggiamento tedesco, perché insomma di questo poi, una volta che l'Italia si è messa a fare i compiti. Tra l'altro, nel salutare Gerardo Pelosi, vi ricordo che domani sul Sole 24 Ore, assieme a tantissimi altri approfondimenti che riguardano la manovra del governo, vi sarà anche un approfondimento sull'incontro, sul vertice italo-tedesco. Mi è piaciuta molto questa tua analisi, perché appunto ci dà qualche speranza. Importantissimo l'appuntamento del 20 gennaio a Roma per capire se vi sarà una svolta, e poi lo vedremo anche sui mercati. Grazie all'inviato del Sole 24 Ore. Anticipiamo un po' il traffico, perché poi l'ultima parte la vorrei fare sulle liberalizzazioni, mentre vedo che alcuni ascoltatori ci scrivono che non hanno che hanno pagato notaio non in nero, che quindi hanno avuto un rapporto con notaio, un'esperienza con notaio assolutamente corretta e pulita al traffico. Liberalizzazioni, allora, più farmacie, taxi, notai, via le tariffe minime per le professioni, servizio ferroviario allargato alla concorrenza, stop alle polizze assicurative imposte dalle banche sui mutui. Questi gli elementi principali del decreto che arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri il prossimo 20 gennaio, mentre devo raccontare due storie incredibili, cioè che 5 ingegneri di Torino sono stati richiamati dall'Ordine Provinciale degli Ingegneri perché avevano fatto ricorso a Groupon offrendo una certificazione energetica con sopralluogo e certificato e tutto il resto a 59 euro invece che 300, e l'ordine li ha richiamati all'ordine. Non puoi, devi stare alla tariffa minima. Stessa cosa per gli avvocati. A Firenze il Consiglio Forense di Firenze ha aperto un'inchiesta contro uno studio di avvocati di Pistoia perché offriva un trattamento extragiudiziale facendo pagare sostanzialmente 39 euro contro i 500 minimi. Ecco perché siamo contro gli ordini professionali quando mettono le tariffe minime. Sentiamo Mario Monti sulle liberalizzazioni. Ho illustrato alla cancelliera i principali aspetti della nostra politica avanzata, nel senso che nei prossimi giorni dovremo arrivare a un provvedimento molto ampio per quanto riguarda le liberalizzazioni. Così come le ho indicato che cosa stiamo cominciando in questi giorni a fare come dialogo con le parti sociali per quello che riguarda ulteriori riforme del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Lo scopo di tutta questa operazione è quello di conseguire contemporaneamente più crescita e più equità. Io sono molto convinto, ma in questo non faccio che ripercorrere i passi della soziale Marktwirtschaft, dell'economia sociale di mercato tedesca da Ludwig Erhard in poi, e ho visto nell'ufficio della cancelliera, se posso permettermi di rivelare questo, un bellissimo ritratto del cancelliere Adenauer. Questa esperienza tedesca ci ha insegnato come mercato e equità e crescita vadano insieme, non siano contraddittorie le une con le altre. Caspita, un niente proprio di meno che un riferimento a Adenauer, al modello renano, che storicamente si contrappone a quello anglosassone più mercatista, ma questo ci porterebbe un po' fuori. Avete sentito come anticipavo il passaggio di Mario Monti, in cui ha detto un provvedimento sulle liberalizzazioni il più ampio possibile. Già citavamo i vari punti presenti ed è chiaro a tutti che per il governo la strategia migliore sia quella di scontentare il maggior numero possibile di categorie, nel senso che ogni farmacista prende anche il taxi, ogni tassista va anche in farmacia, ogni notaio va alla pompa di benzina e ogni tanto anche al benzinaio capita di usare il notaio. Se tutti sono scontenti, il decreto probabilmente passa nel miglior modo possibile, perché crea un conflitto tra categorie, per cui tu sei scontento come farmacista ma sei contento come utilizzatore del notaio o della rete ferroviaria. Già la linea l'aveva tracciata due giorni fa a Porta Antonio Catricalà. E da qui però vorrei partire, perché oggi in prima pagina sul Corriere della Sera c'è una critica, un rilievo all'approccio adottato sulle liberalizzazioni che ho trovato particolarmente interessante. Intanto sentiamo però il passaggio di Catricalà sulle liberalizzazioni due giorni fa da Bruno Vespa. Il documento che il Presidente Monti e io stiamo assemblando riguarda tutti i settori, dall'energia alle ferrovie, ai trasporti in generale, fino alle assicurazioni, il settore bancario e naturalmente quindi i servizi taxi, privati. Non solo taxi e farmacie. No, sarebbe assurdo. Naturalmente anche i servizi. Anche l'acqua, dice. No, purtroppo sull'acqua abbiamo un problema, perché il referendum ci impedisce un intervento diretto con le stesse modalità. Però anche sull'acqua noi pensiamo di poter fare delle modifiche che non vadano contro il risultato referendario. questo punto catricherà. Allora, farmacie, farmaci, taxi, benzina, servizi pubblici, ferrovie, banche, c'è qualcosa? Ricordavamo appunto, basta ai contratti di assicurazione che le banche fanno sottoscrivere contemporaneamente all'erogazione di un mutuo, qualcosa sugli ordini professionali. Però, insomma, oggi, come anticipavo, Antonio Polito su Corriere della Sera scrive la pagliuzza e la trave a proposito di liberalizzazioni. È nostro ospite. Antonio, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Fermo restando che abbiamo sempre appoggiato le liberalizzazioni e che a mio avviso resta quello che dicevo, cioè se passa il messaggio che uno potrà essere colpito come singola categoria ma ne può avere un vantaggio laddove costano meno altri servizi e si scontentano tutti, quindi lavoratori dipendenti a cui si innalza l'età pensionabile, evasori e si farà lotta all'evasione, categorie protette e ordini professionali, forse questo decreto passa. Tu individui una specie di squilibrio nella così, ondata liberalizzatrice. Dov'è lo squilibrio? Dov'è la pagliuzza e dov'è la trave? Ma sai, mi ha colpito che in questa stessa trasmissione in cui Caticalà ha detto le cose che hai fatto ascoltare, poi però una domanda sulla separazione proprietaria tra l'ENI, che è, diciamo, il produttore, il fornitore, maggior produttore e fornitore di gas al mercato italiano, e la Snam, che è una società di fatto di proprietà dell'ENI, che invece è la rete, quella che trasporta il gas con i tubi, che è considerata da tutti come un'ovvia misura liberalizzatrice, no? Perché bisogna separare il gestore della rete, questo si è fatto in tutti i mercati con effetti anche positivi spesso. Di fronte a questa domanda lo stesso Caticalà ha detto: no, questa non è una priorità del governo. Siccome io l'ho già vista questa storia, perché ci provarono col governo Prodi e non ci riuscirono, poi se ne è parlato ai tempi del governo Berlusconi e non si è fatto, non vorrei che anche il governo Monti arretrasse di fronte a queste cose, perché se no vuol dire che tagliamo e colpiamo nel suo interesse il piccolo privato, il giornalaio, il tassista, eccetera eccetera, e lasciamo da parte i grandi santuari, diciamo così, quegli ex monopoli o quei monopoli di fatto che ancora restano nel mercato italiano. Liberalizzare quei mercati equivale a liberalizzare milioni e milioni di tassisti, cioè è una partita molto più grossa. Non vorrei che si dimenticasse, diciamo, creando una specie di clima un po' da caccia alle streghe nei confronti dei professionisti, dei tassisti e dei sì, allora io direi va bene tutte le liberalizzazioni a cui abbiamo fatto riferimento, aggiungiamoci anche dell'altro, però, nel senso che se chiedi un sacrificio a queste categorie devi anche andare a colpire tra virgolette il big fish. Allora vediamo di cosa stiamo parlando. Oltre al costo dei farmaci, che in Italia è più alto rispetto alla media europea, e altri costi che sono più alti, noi paghiamo per esempio il gas un 50% in più rispetto alla Gran Bretagna, e comunque abbiamo un costo dell'energia anche sul gas che è più o meno un 30% in più rispetto alla media europea. Ma questo vale anche per le ferrovie dello Stato, abbiamo un costo dei biglietti ferroviari che è cresciuto del 23% in questi 4 anni, come tu citavi, con una norma introdotta dal vecchio governo Berlusconi che proibisce ai concorrenti delle ferrovie dello Stato sulle tratte regionali di effettuare le fermate tra una regione e l'altra, e poi via così. Se ho ben capito, tu dici: occupiamoci delle categorie, degli ordini professionali, dei tassisti, dei farmacisti, dei giornalai, dei notai, ma anche di treni, di gas. Tra l'altro, su questo va detto che quando, per esempio, nel caso delle telecomunicazioni è stata liberalizzata la rete, e cioè Telecom Italia è andata a concorrere sulla rete come le altre società, come Wind, come Vodafone, beh, i vantaggi sui prezzi si sono visti, Antonio. Sì, ma è proprio così. Adesso tu hai usato l'esempio della telefonia. La telefonia è l'esempio di maggior successo in assoluto delle privatizzazioni. Tra l'altro, se guardi i dati della CGA di Mestre, l'unico servizio il cui prezzo è diminuito negli ultimi anni è quello dei servizi telefonici. È diminuito in termini non rispetto all'inflazione, in assoluto, cioè un meno 11%, anche scontando l'inflazione. Ma vale anche per l'energia elettrica. Anche l'energia elettrica, la separazione effettiva tra la rete e il gestore, il distributore, ha prodotto un contenimento dei prezzi dell'energia elettrica, perché i prezzi dell'energia elettrica sono abbastanza moderati e sono cresciuti meno dell'inflazione, però lì sappiamo che ci grava sopra un'altra assurdità, cioè gli incentivi che vengono distribuiti per le energie alternative e assimilate, per cui sono concepiti per ragioni ambientali, sono incentivi che vanno anche ai petrolieri, per esempio, per una lavorazione di scarto delle loro raffinerie. Cioè l'Italia è una tale giungla di piccole protezioni, non di piccole, di protezioni a settori o a interessi costituiti, e insomma c'è tanto da disboscare, non vorrei che ci si limitasse. No, ma io in maniera politica, secondo me, non so se condividi questo principio, più tu attacchi tutti, diciamo, e colpisci tutti, e più fai passare questo diciamo, elemento di riforma, perché non crei vittime. Se siamo tutti vittime, non ci sono vittime. Adesso esasperando il concetto, forse. Ma questo concetto che tu esprimi è un concetto che Mario Monti ha espresso più volte, anche molto prima di diventare premier, quando faceva il commissario alla concorrenza. Però la sua idea è: se tu scontenti tutti, riesci a fare le cose, perché... però appunto questo è il punto, però se tu scontenti tutti ma non l'ENI, no, allora o le ferrovie, non funziona, certo. Più ecco, ma se su questo devi scontentare tutti, scusa, ma devi, qualcuno deve essere contento, cioè il consumatore deve essere contento, il consumatore deve trovare abbastanza rapidamente un effetto positivo della liberalizzazione, cioè se il farmaco costa un po' meno, allora hai centrato, hai colpito il segno. Beh, sui farmaci, per esempio, c'è, lo citiamo ogni volta, il rapporto dell'antitrust dell'allora presidente Catricalà, l'attuale sottosegretario, meno 20% nei farmaci generici da banco da quando si sono introdotte le parafarmacie. Questo è un dato oggettivo, per cui lo stesso, torno all'esempio di prima, lo stesso notaio, tassista o giornalaio, quando va a comprare un farmaco generico ha avuto un risparmio del 20%. Domanda finale, però, non è che sulle liberalizzazioni e la concorrenza dei soggetti a cui tu facevi riferimento, Ferrovie dello Stato, Enel, Eni, lì il problema sia che lo Stato, cioè il governo, è in conflitto di interessi perché è azionista o di maggioranza relativa o di maggioranza assoluta, per cui è più facile, diciamo, andare a liberalizzare e far abbassare prezzi e tariffe, se si riesce, su settori in cui tu non sei azionista, mettiamola così. Hai perfettamente ragione, questo è un punto fondamentale. A parte, per esempio, nel caso dell'Eni, certamente una delle, diciamo così, sudditanze dei governi agli interessi dell'Eni dipende dal fatto che diciamo l'Eni stacca dei dividendi per lo Stato italiano abbastanza consistenti e cospicui, quindi naturalmente diciamo ci si preoccupa di non ridurre il guadagno che lo Stato ha da queste cose qui, ma più in generale sono, io perciò dico nel mio articolo, il problema maggiore, il grasso maggiore c'è lì dove ci sono mercati in cui la posizione dominante è tenuta dal pubblico. Dallo Stato, sì. Quindi, diciamo, o dallo Stato o dalle, come dire, dagli esiti delle posizioni, aziende in cui lo Stato ha la maggioranza, ha una rilevante partecipazione. Oppure non solo lo Stato, ma anche gli enti locali, perché un altro grande settore, una cosa immensa, e il vero costo della politica in Italia è la selva di società partecipate, pubbliche, cioè partecipate, che ci sono in giro per l'Italia e che gestiscono i servizi pubblici locali. Se guardiamo le tabelle, i servizi pubblici locali, in particolare i trasporti e la raccolta dei rifiuti urbani, sono quelli il cui prezzo è salito di più in questi 10 anni, in coincidenza con questa esplosione di società che poi sono consigli di amministrazione, associazioni clientelari. Clientelari e di politici, appunto, trombati nelle elezioni amministrative. Grazie Antonio Polito, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.